Solo due informazioni da vocabolario. La parola inglese hacker viene dal verbo to hack, che significa tagliare, spezzare, sfrondare, sminuzzare, insomma aprirsi un varco. Perché gli hacker storicamente erano quelli capaci di ridurre il numero di linee di codice per istruire computer. Erano insomma i secchioni del MIT, quelli che non vedevano l'ora di mettere le mani, che studiavano i primi manuali di informatica e non vedevano l'ora di mettere le mani sugli mainframe, sui grandi computer. Fatto sta che la leggenda dice che insomma è che anche rompere le serrature dei seminterrati per entrare dentro e frugare nel computer. Questa è la leggenda, però. E sono stati poi i primissimi a passare notti intere a programmare appunto i linee di codice. Quello degli hacker è un mondo molto ampio, è diviso in tanti gruppi. Noi parliamo di hacker, però ci sono delle distinzioni da fare. La prima è quella tra gli ethical hacker, cioè gli hacker che seguono delle linee etiche, quindi quelli buoni, quelli che vogliono sfidare i limiti della tecnologia. Poi abbiamo i grey hat hacker, cioè quelli che si muovono sui confini, quelli grigi. Quelli che alcune volte quindi seguono le regole, altre volte invece le infrangono. E poi invece abbiamo... Poi se i colori hanno un senso, no? Cioè dopo il grigio c'è... Il nero. Esatto, quelli più cattivi di tutti, i corsari neri. Quelli che infrangono le regole per profitto e quelli che in genere poi finiscono sulle prime pagine dei giornali per notizie appunto di e grandi poi ci furti. Sono gli hacker alla Lisbeth, la protagonista di Millennium degli Lisbeth uomini. È un po' grigia, eh? È un po' grigia, va bene.